è l'unica cosa che possiamo fare. Camminare. Paura che sicuramente li incontreremo per strada, gli facciamo ciao ciao con un gran sorriso sulle labbra. Ciao ciao. Con l'autore e attore Beppe Casales per parlare del suo spettacolo Nazi Europa a Campo Teatrale Milano dal 12 al 17 novembre 2019. Beppe, ben trovato. Grazie anche a voi. Ce lo presenti? Sì, volentieri. È un lavoro che ormai porto in giro da un anno e mezzo, che parte da una domanda che mi sono fatto guardando la televisione, guardando i telegiornali, vedendo quello che vediamo tutti. E mi sono immaginato se avessi una figlia e mi avesse chiesto che cosa facevo mentre stava succedendo tutto quello che sta succedendo. Se mi avesse chiesto cosa facevo io, non avrei saputo bene cosa rispondere. E quindi mi sono dato una mossa e ho cercato di assecondare due sentimenti, due emozioni che mi sono venuti molto forti, che sono rabbia e vergogna. E quindi ho pensato di fare quello che so fare, cioè fare uno spettacolo che rispondesse a queste due sensazioni, queste due emozioni, la rabbia e la vergogna. Quindi volevo fare, ho fatto uno spettacolo che da una parte è molto duro, perché sono stato duro con me, quindi sono duro anche con gli spettatori, e dall'altra è molto emotivo, perché comunque la connessione con questa ipotetica figlia è rimasta, e di fatto lo spettacolo è una lettera a una figlia che ancora non c'è. Quindi ci sono queste due cose: da un lato un percorso storico su quello che è successo negli anni 30 in Germania e confrontato con quello che sta succedendo adesso in Europa, e dall'altra appunto cercare una connessione umana prima di tutto con una figlia che verrà e poi con tutti gli altri. Quali sono le cause scatenanti di questa vergogna, di questa rabbia? Esattamente come è avvenuto negli anni 30 in Germania, una legislazione, uno Stato che discriminano, quindi leggi discriminatorie e governi che discriminano, portano poi abbastanza, neanche così lentamente, le persone ad assumere anche loro questi atteggiamenti discriminatori, come se si sentissero nel diritto di farlo, no? Per cui abbiamo visto tutti come se molti anni fa avere atteggiamenti razzisti era considerato vergognoso, e quindi nessuno in pubblico si permetteva di, magari lo era nel privato, ma in pubblico non si permetteva di essere razzista o di avere atteggiamenti discriminatori, e invece adesso è completamente sdoganata questa cosa. Per me è fonte di reale vergogna e anche proprio di rabbia, perché credo che sia proprio la strada sbagliata, no? E quindi nasce più o meno da qui. Come hai realizzato la messa in scena? Ho cercato che la messa in scena fosse il più d'impatto possibile, per cui io sono un narratore, per cui di solito mi basta avere una luce e un microfono, e in realtà questa volta ho cercato di usare tantissimo le immagini e tantissimo la musica, soprattutto per arrivare anche ai ragazzi più giovani di me, che sono nati con questi due linguaggi e li hanno sotto gli occhi tutti i giorni. Per cui nello spettacolo ci sono moltissime immagini proiettate, montaggi di video, diciamo appunto dell'epoca nazista, e interviste in TV di questi giorni. Dall'altro tanta musica, per cui ci sono delle vere e proprie canzoni, dei pezzi che sono appunto tra il rap e la spoken poetry. Insomma, la direzione che ho preso è a metà tra un concerto, uno spettacolo teatrale, una narrazione e un film. Quali sono secondo te gli antidoti? È molto difficile, ma in realtà ne parlo appunto alla fine dello spettacolo. Secondo me, insomma, per me è il pezzo più importante perché mi interessa relativamente fare il percorso storico. Quello che penso, che in realtà è molto banale, è il fatto che il nostro razzismo e il nostro atteggiamento nei confronti degli altri si misura rispetto al grado della nostra felicità. Per cui forse sarebbe il caso di occuparci un po' di più della nostra felicità, di come ci sentiamo noi nelle relazioni rispetto agli altri, perché la frustrazione dei nostri desideri e del nostro stare al mondo nella maniera più felice possibile è il canale diretto per poi appunto scatenarsi nella guerra contro chi è più debole di noi. E da questo penso che nessuno, proprio nessuno, è immune, ed è per questo che è una cosa che riguarda me, riguarda tutti. Non si salva veramente nessuno, né dal razzismo né dalla violenza, perché secondo me è direttamente connesso alla nostra felicità. E non posso non dire che la felicità parte dalle relazioni, perciò questo, diciamo, è il nocciolo fondante dello spettacolo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, il mio sito è beppecasales.com e poi c'è il sito capoteatrale.it dove si possono comprare i biglietti per lo spettacolo che sarà a Milano dal 12 al 17 novembre. Lasciami dire che inevitabile sarà in la prossima settimana un riferimento a quello che è successo a Roma, perché mi dispiace tantissimo dirlo, ma non c'è nulla di più attuale che una cosa che si chiama appunto Nazi Europa, perché stiamo veramente andando oltre ogni limite. Nazi Europa di e con Beppe Casales a Milano, Campo Teatrale, dal 12 al 17 novembre 2019. Beppe, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo, ciao. Con Walter Malosti, che cura l'adattamento e l'interpretazione dello spettacolo Se questo è un uomo, dall'opera di Primo Levi, a Roma, Teatro Argentina, dal 5 al 17 novembre 2019. Walter, ben trovato. Ben trovato anche a te e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti di questa operazione? Sì, dunque, casca curiosamente nel centenario della nascita di Primo Levi, ma è un progetto che stiamo pensando da molti anni e finalmente, diciamo, quest'anno si è sbloccato tutto il problema relativo alle autorizzazioni da parte degli eredi, anzi che hanno partecipato anche attraverso il Centro Internazionale Primo Levi attivamente alla creazione dello spettacolo, e con l'Inaudi anche, che è stato un ottimo partner dell'operazione. E quindi, diciamo, è un lavoro che è meditato da lungo tempo e nasce così, nasce dal fatto che alcuni anni fa mi ero trovato a fare un lavoro su Levi e la chimica e avevo letto ad alta voce delle pagine di Se questo è un uomo, che ovviamente conosciamo quasi tutti per averlo letto alle scuole medie, chi più o chi meno, ma letto ad alta voce improvvisamente mi si è spalancata un'idea, una sensazione di questa potenza acustica delle parole che mi era completamente sfuggita leggendolo così sulla carta. E credo che sarà l'esperienza più interessante per chi verrà a teatro, accorgersi in qualche modo della potenza di questa lingua, che non è solo la lingua di un testimone, ma è la lingua di un grande scrittore, e anche, insomma, ci fa considerare Se questo è un uomo anche come uno dei capolavori del Novecento, anche dal punto di vista letterario. Questa è un po' la genesi, diciamo, del testo. Poi, lavorandoci, adesso è uno spettacolo molto complesso, forse sono sostanzialmente io in scena insieme ad altri due performer, ma è molto complesso dal punto di vista tecnico, perché c'è tutta una serie di, insomma, di installazioni sia visive, con una scena di Margherita Palli molto potente, che dei video di Luca Brinchi e Daniele Spano, ma soprattutto poi tutta la parte sonora, è una sorta di audio installazione che dura tutto il tempo in cui io sono in scena e fa in qualche modo corpo a corpo con le parole di Levi. Lavorandoci sopra, come spieghi questo scarto tra la parola scritta e la lettura? Guarda, il segreto di tutti i grandi scrittori, sia di teatro che non, cioè la parola, beh, intanto dunque bisogna considerare il fatto che nel caso di Levi, lui tornato dal campo aveva questa urgenza proprio di raccontare, di dire quello che era accaduto, e quindi nel romanzo c'è questo doppio aspetto: da una parte questa oralità molto presente, che forse uno non avverte nella lettura così sulla carta, e dall'altra parte ovviamente c'è Dante, cioè il riferimento costante di Levi nello scrivere Se questo è un uomo è ovviamente la Divina Commedia, che lui cita più volte e che poi è anche la protagonista di uno dei capitoli più belli, che credo è dedicato a Ulisse, a quando Levi cerca di insegnare l'italiano a questo giovane che si chiama Piccolo e che in realtà si chiama Jean Samuel. E quindi questo doppio canale di grandi scrittori, quindi c'è una grande forza comunicativa, perché lui queste cose le raccontava a alta voce a chiunque incontrasse in quel periodo, e dall'altra parte c'è la poesia, e c'è un piccolo segreto, ma insomma, che per chi è avvezzo, insomma, l'opera di Levi forse non è tale, ma diciamo, molti dei capitoli di Se questo è un uomo e anche della Tregua sono in qualche modo hanno il loro, diciamo, la loro luce iniziale in alcune poesie che Levi scrive tornato dal campo di annientamento negli anni 46-47, e quindi sono queste due forme che si intrecciano, no? C'è questa oralità molto potente e la poesia, quindi potrebbe anche essere considerato come un grande poema questo romanzo, ecco. Leggo che si tratta di una condensazione scenica a quattro mani, ecco, su cosa avete voluto centrarla rispetto al testo? Ma io mettevo, diciamo, la parte più teatrale, no? Domenico Scarpa, che è un grande critico letterario, nonché, diciamo, consulente scientifico del Centro Internazionale di Studi Primo Levi, mi ha aiutato Domenico a conservare tutti i registri molteplici che sono dentro questo testo. È un testo, tra l'altro, un romanzo, adesso è una parola che si usa molto in questi anni, ma la devo dire lo stesso, è un romanzo distopico, cioè nel senso che Levi va avanti e indietro nel tempo durante la narrazione, e questo lo rende molto affascinante, ovviamente. Cioè, quindi la condensazione sostanzialmente è essere riusciti o meno, insomma, a mantenere questi famosi registri presenti nel testo. Cioè, lui a volte si rivolge a noi, a volte in qualche modo sono riflessioni filosofiche, a volte in campo in diretta con quello che accade, no? A volte lui torna indietro quando era più giovane, a volte va avanti, a volte ci pone delle domande, e questi diversi registri vanno avvertiti da chi ascolta e anche da chi lo interpreta, ed è un po' il segreto in qualche modo della grande forza comunicativa del testo. Ricordiamo lo spettacolo Se questo è un uomo a Roma, Teatro Argentina, dal 5 al 17 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Walter Malofi, che ne ha curato adattamento e interpretazione. Walter, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. D'accordo, a prestissimo. L'autrice e attrice Ilaria Drago sul suo concerto poetico Simone Veil a Roma ad In Funzione giovedì 14 novembre 2019. Grazie di essere qui. Ciao, grazie. Ciao, un saluto a tutti voi. Una donna, una pensatrice davanti agli orrori della storia, ai poteri, alla Chiesa Cattolica, così come ai fascismi, la Spagna di Franco durante la guerra civile, il nazismo e quindi la Seconda Guerra Mondiale. Sì, lei è morta nel 43, quindi poi non ha vissuto anche gli ultimi momenti, oso dire per fortuna, ma insomma di quello che è stata poi la guerra, no? Il pieno, diciamo, della guerra, soprattutto la parte, i campi di concentramento e sì. La parte più, forse tra le più terribili, insomma, di quel momento. Però sì, è una donna che ha vissuto giovanissima, perché è morta a 34 anni, veramente una parte di storia un po' impegnativa, direi. Senti, allora, come è venuto l'accostamento, come ti sei avvicinata alla figura di Simone Weil? L'idea di Simone Weil nasce da un dalla drammaturga Ombretta De Biase, che mi aveva chiesto di fare un lavoro su questa figura eccezionale, e io ti devo dire la verità, la conoscevo ma non così bene, quindi ho detto vabbè, la studio e poi rispondo, insomma, se procedo con questo lavoro o meno. E devo dire, sono rimasta affascinata da questa pensatrice, da questa filosofa militante, poi come si definiva lei, perché è stato per me un incontro veramente che mi ha cambiato la vita. È un personaggio meraviglioso, tra l'altro ha scritto di tutto, su ogni cosa, e non poteva che inchiodarmi sui suoi libri a leggere, e veramente ti dà, restituisce uno sguardo nuovo, sempre nuovo, sulla realtà. Mm-hmm. Poi dice, è strano dire nuovo, avendo vissuto, insomma, ai primi del Novecento, però in realtà la sua capacità di analizzare con lucidità le cose è assolutamente, insomma, contemporanea, mi viene da dire, la avessero tanti dei nostri politici, una tale lucidità, no? Sì. E quindi niente, ho detto sì, assolutamente sì, lavoro su di lei, e ho lavorato insieme a Marco Guidi, che ha curato poi tutta la parte di sonorizzazioni e musica, e ho proceduto un po', ecco, poi secondo la mia poetica, e quindi poi dallo studio d'obbligo che c'è stato per 2-3 mesi in realtà su di lei, poi c'è stata la trasformazione in diciamo parola poetica, perché poi non è che puoi fare un concerto poetico portando semplicemente quello che lei ha scritto, perché diventerebbe, a parte non finiresti più, durerebbe 6 sì, giorni, sì. Però poi va data quella parola poetica che può essere, può poi anche, ecco, contattare l'emozione, e permette secondo me un avvicinamento, come è successo in periodo, insomma, in cui l'abbiamo fatta, a proprio la figura di Simone, quindi andarsela a leggere. Tra l'altro è la seconda volta che torniamo sul personaggio, perché Ermelinda Bonifacio ci aveva portato qui Diario di Fabbrica un po' di tempo fa. Ah, ecco, è che io non ho sentito, vedi, ho fatto bene a dirmelo. E volevo dirti, a questo punto, la riduzione teatrale dai suoi testi, come hai lavorato, e poi anche il lavoro sulle musiche, che hanno diverse suggestioni, attraversano gli spazi geografici e temporali. Sì, appunto, questa prima fase di studio profondo su di lei, sul libro Attesa di Dio, sono stata 3 giorni su 2 pagine leggendole, rileggendole, perché mi pareva proprio di meditare su quelle pagine in realtà, e ogni volta le leggevo cambiava qualcosa dentro di me, è stato meraviglioso. E dopo questa prima fase, allora, ho avuto questa idea di scrivere questa lettera nel momento in cui lei si staccava dalla vita. Siccome avevo letto queste lettere che lei ha scritto a padre Perrin, e allora ho pensato, vabbè, scrivo una lunga ultima lettera in cui poi si ripercorrono alcune tappe della sua vita, che ho ritenuto, insomma, quelle più importanti, ma vero è che ho dovuto, come dicevo prima, tagliare tantissimo. Sì. Ed è stata difficilissima la scelta. E però, secondo me, ecco, il mondo del lavoro, la guerra, purtroppo, ahimè, è contemporanea, non finisce più. E però poi anche il rapporto con la spiritualità, la religione, la chiesa più che altro. Sì. E mi sembrava, ecco, le tappe da toccare, e che in qualche modo ci potessero coinvolgere. E quindi c'è stata questa idea di questa ultima lettera di commiato a padre Perrin, anche poi lui era l'unico, lei dice, l'unico vero amico e confidente. E poi il lavoro sulla sonorizzazione musica è stato, vabbè, a parte che ci sono queste parti di live electronics con che in scena con l'uso insomma di loop e strumenti, cioè sono anche delle improvvisazioni vocali. E poi però Marco, mi dispiace che non ne possa parlare lui in questo momento perché non c'è, ma ha fatto una ricerca appunto sulle sonorizzazioni, gli ambienti. L'autrice e attrice Ilaria Drago sul suo concerto poetico Simone Veil a Roma ad In Funzione giovedì 14 novembre 2019. La regista Veronica Cruciani sullo spettacolo Accabadora a Roma al Piccolo Eliseo dal 14 al 24 novembre 2019. Ben ritrovata! Grazie! Questa volta regista dello spettacolo Accabadora, raccontaci un po'. Lo spettacolo nasce dalla lettura di un romanzo, del romanzo di Michela Murgia, Accabadora. È un romanzo che ho scelto io, mi ha colpito particolarmente per i temi che tocca, che penso siano temi importanti, di grande attualità, e quindi ho sentito la necessità di portarli in scena, di volerli riscrivere per il teatro e portarli in scena. Ho contattato Carlotta Corradi, che mi ha fatto una riscrittura per il teatro. Da subito io ho avuto l'idea di volerne fare un monologo, però dal punto di vista di Maria, un po' perché ho empatizzato con questa ragazzina, con questa Maria, che è una ragazzina che è la quarta figlia di una donna che non la ama, non la vuole, la chiama l'ultima, la quarta, e l'idea di avere una seconda possibilità per Maria, l'idea di un riscatto per Maria è qualcosa che mi ha comunque commosso, perché quando le persone si sentono scelte si entusiasmano, e quindi ritrovare una seconda madre, un'altra madre, che è una madre non di sangue ma una madre adottiva che però la ama, regala a Maria una seconda possibilità, tant'è vero che lo spettacolo è una vera e propria storia d'amore tra questa madre e questa figlia. Non è importante che non sia una madre di sangue, non è importante che sia la madre biologica, ma è una madre di fatto, diciamo. Quindi anche questo tema è un tema importante, perché propone un modello alternativo di famiglia dove la madre non è quella biologica ma adottiva, e quindi un modello diverso di società. Questo è un aspetto politico, un aspetto politico questa storia, che è sempre quello che poi mi interessa nelle storie che scelgo di mettere in scena. Sì, ecco, a proposito di aspetto politico, su questo, ma anche sul rapporto artistico che avete instaurato, Michela Murgia, che abbiamo sentito la scorsa volta per lo spettacolo su Grazia Deledda, ha speso delle belle parole sul vostro duo. Sì, è vero, siamo diventate molto amiche, ma lavoriamo insieme e faremo anche in futuro altre cose. Condividiamo proprio questo, una visione del mondo che in qualche modo ci accomuna, sì, per molti aspetti. Sì. Senti, dalla sua penna fino alla messa in scena, il punto di vista di quattro donne comunque. Beh, sì, diciamo il femminile è, in questo senso, il protagonista. E io, diciamo, registicamente, rispetto a questo dialogo tra questa madre e questa figlia, ho operato una scelta un po' di ribaltamento, perché trasformo questo dialogo in un dialogo tutto interiore, cioè come se Maria dialogasse con una parte di sé. Noi fin da bambini interiorizziamo il nostro genitore, quindi abbiamo un genitore interno, ed è come se lei parlasse con quest'altra Maria. Cioè, Maria è Maria, ma è anche l'Accabadora. In scena, con il lavoro, appunto, abbiamo costruito questa parete grigia, che è un corpo, che è una sorta di pelle dove da questa ferita escono i vestiti che poi lei indosserà. È una specie di scatola cranica, un corpo a tutti gli effetti, e una parete in cui poi c'è il doppio di Maria, che viene proiettato attraverso il lavoro con le immagini che abbiamo fatto insieme a Lorenzo Letizia, con i suoni che abbiamo fatto insieme a Hubert Westcamper, con le luci di Gianni Staropoli, le scene di Barbara Betti. Diciamo, tutta la squadra si è concentrata nel portare avanti questo dialogo tra Maria e Zia Bonaria, sua madre, che avviene tutto nella testa della protagonista, perché lei riattraversa questa storia tra loro due per rielaborare questo lutto, questa morte di questa madre, e riattraversandolo si confronta con il proprio passato e capisce chi è oggi, nel presente. C'è una parte in cui Maria dice: io sono la figlia, la sorella so fare, non la madre. Cioè, proprio questa difficoltà di fare questo passaggio nel diventare genitori, no? Uno può diventare genitore o perché fa dei figli, o perché anche i propri genitori, come in questo caso, invecchiano e devi prendere cura dei tuoi genitori. E in questo caso è proprio questo passaggio che Maria cerca di fare, anche la morte di questa madre, il gesto che lei è in conflitto se fare o non fare, la madre è malata da mesi, da anni, da tempo, e si sentono questi respiri, questa sofferenza di questa madre malata. Lei dice: siete ridotta a un verme, non mangiate, non so nemmeno se mi ascoltate. E a un certo punto lei si troverà nel conflitto di dover compiere un'azione. La madre con gli occhi gli chiede di porre fine alla sua vita, e Maria non ce la fa ovviamente a farlo, perché è un gesto che richiede un grande coraggio, un grande sforzo, un atto di pietà che è difficile comunque compiere in quelle situazioni. E quel gesto però per me ha un valore del tutto simbolico, nel senso ha un valore, è una storia che parla di crescita, e la crescita è quella di Maria, di, come dire, confrontarsi anche con questo conflitto che prova, e assumersi anche la responsabilità di un superamento di un lutto e di una morte per poi proseguire la propria vita. A Cabadora, per la regia di Veronica Cruciani. Veronica, un abbraccio, a risentirci presto, e ci si vede a teatro. Ciao a tutti, grazie. Ciao. La regista Veronica Cruciani sullo spettacolo A Cabadora, a Roma, al Piccolo Eliseo, dal 14 al 24 novembre 2019. Con l'autore, attore Ascanio Celestini, per parlare dell'appuntamento con Barzellette per Roma Europa. A Roma, al Teatro Vittoria, dal 5 al 17 novembre 2019. Ascanio, ben trovato. Ben trovato anche a te, eccoci. Ci racconti un po' di questo lavoro? Beh, andiamo in ordine del giorno proprio. La prima cosa è che la Barzelletta è racconto orale, non è meno importante, è meno interessante o rivelatrice della fiaba o del canto di tradizione orale o della tarantella, eccetera eccetera, per cui essendo racconto orale ci racconta qualcosa che nella letteratura dei letterati, degli autori, pur stupendo ovviamente, perché noi leggiamo con passione Dostoevsky o che ne so, Pasolini, Moravia, Proust e via discorrendo, però c'è quell'altra letteratura che è quella scrittura senza scrittori, con nome e cognome stampato sulla copertina, che però ci racconta tante altre cose. E Barzelletta fa parte di quel mondo lì, delle fiabe e della letteratura orale, prima cosa. Seconda cosa, a differenza della fiaba o della danza di tradizione orale, del canto di tradizione orale, le barzellette sono state pubblicate pochissimo e quindi ce ne siamo perse un bel po'. Adesso non è che era proprio indispensabile che io pubblicassi un libro di barzellette, però in qualche modo io penso che se serviva mettere un punto rispetto a quello che abbiamo raccontato negli ultimi anni, ed effettivamente facendo questo lavoro anche di confronto, insomma di comparazione che cercavo di fare in questo libro, Barzellette pubblicato da Einaudi, questo lavoro un pochino c'è, o comunque appunto ho provato a farlo. Lo spettacolo è una maniera per riportarlo nell'oralità, cioè nella parola detta, e senza aver paura delle parole, nel senso che non ci abbiamo avuto paura delle parole quando pubblicavamo, non io, cioè, qualche anno fa, i Grimm o Straparola o Zanazzo, Delino, Finamore, Gonzenbach, Bitre, eccetera, eccetera, non ci abbiamo avuto paura delle parole nel pubblicare quelle fiabe tremende che parlavano di morti, squartamenti, cotture di bambini a forno, eccetera, eccetera, Io credo che oggi non dobbiamo avere paura delle parole parlando delle barzellette. E questo è solamente il primo gradino, perché poi il secondo è cercare di capire come funzionano quei meccanismi lì nel meccanismo della comunicazione contemporanea, cioè dove abbiamo paura di dire le parole, dove lo spastico diventa disabile, dove il cieco diventa non vedente, dove il sordo diventa non udente, dove il muto diventa non elaborante e via discorrendo. Che tipo di raccolta è stata la tua? Un po' come fanno la ricerca sul campo gli antropologi, cercando di essere anche un pochino scientifici, per quanto può valere questo termine, questa definizione, per una cosa così tanto fluida, insomma anche fragile come una barzelletta. Cioè, le barzellette non le racconti a Rotary Club, insomma, forse anche sì, non lo so, non frequento, ma insomma, le racconti al bar, le racconta tuo zio ubriacone, e quindi devi cercare di andare lì dove le barzellette stanno, e soprattutto dove non c'è paura di affrontare gli argomenti che vengono considerati scorretti. Cioè, io credo che la barzelletta, più ancora che la fiamma, un po' meno della bestemmia, che sarebbe, se ci avessi coraggio, fare anche questo lavoro, adesso che non ce l'avrò mai questo coraggio, ma insomma, raccontano qualcosa di estremamente sporco che sta nel linguaggio, ma non per forza nella vita. Cioè, la barzelletta, come in generale il racconto, è un gioco. E fin quando noi lo consideriamo un gioco, possiamo mettere sul tavolo tutto quello di cui ci abbiamo bisogno per giocare. Il problema non è quando giochiamo, il problema è quando facciamo sul serio, o meglio, il problema è quando smettiamo di utilizzare le parole cattive e incominciamo a utilizzare gli strumenti per la violenza. Per cui è un bene che nelle barzellette noi possiamo dire tutte quelle porcate che diciamo, perché è una maniera per fermare, come dire, per arginare la violenza alla quale assistiamo quotidianamente. Mi veniva in mente che per i meccanismi dell'attenzione nel mondo dello spettacolo, ma non solo, ci sono due grandi tematiche che spingono all'attenzione e, se vuoi, anche alla comicità, ossia il sesso e la morte. È così anche nelle storie che hai individuato? Ah, sì, sì. Il personaggio che interpreto a un certo punto lo chiede proprio al suo interlocutore: secondo te cosa è più misterioso, il sesso o la morte? Perché? Perché, ma non perché archetipicamente siano due compagni nel viaggio della letteratura, ma anche perché effettivamente sono due misteri. Viviamo una fascinazione nei confronti del sesso, della morte, anche di tante altre cose, dei cicli della natura, che so. Ma li viviamo proprio perché sono misteriosi, ma alla volta sono misteriosi a noi soltanto, cioè a noi personalmente, perché non capiamo bene come funzionano, ma molto spesso è perché lasciamo che questo mistero in qualche maniera resti tale, perché altrimenti non saremmo mai più commossi per la fioritura dei clienti, del pesco, o anche insomma della sessualità e della morte. C'è interazione con il pubblico nel tuo spettacolo? È strano, io sono ormai più di 20 anni che faccio teatro, ho fatto spettacoli su disagio mentale, la seconda guerra mondiale, che ne so, i lavoratori in fabbrica, i lavoratori precari, e questa con le barzellette è la prima volta che ho dei problemi nel senso con gli spettatori, perché si arrabbiano, insomma, perché le barzellette, a differenza della lotta partigiana o del manicomio, fanno ancora arrabbiare molto a pelle le persone, perché io penso appunto quello che dicevo prima, cioè c'è proprio una paura delle parole, certe parole non possiamo dirle. Allora, se parliamo del nazismo, della lotta partigiana, in una maniera o nell'altra, almeno diciamo nel nostro gruppo di conoscenze, di frequentazioni, siamo d'accordo. Quando incominciava a parlare di omosessualità, gli zingari e il negro, così non siamo più d'accordo. E la barzelletta è sempre sgradevole, o meglio, è quasi sempre sgradevole. Sono pochissime le barzellette che non sono sgradevoli, o meglio, potrebbero essere molto di più, però non so, barzellette non fanno di nessuno. Sono sgradevoli perché smuovono qualcosa che nel nostro linguaggio composto, pulito, igienico, non basta. Allora, appunto, quando noi non sappiamo come chiamare l'uomo o la donna in carrozzina, quando scriviamo un messaggino, una mail, capito, all'amico di sinistra e diciamo compagne con l'asterisco, perché non possiamo dire compagno, perché sennò poi sembra che nasci fuori le femmine. Questo è un problema, cioè, ma è un problema che abbiamo noi con le parole, ma non sono le parole che sono sbagliate, cioè le parole dicono le cose. Io mi ricordo una scritta al Pigneto, tradizionale proprio dagli anni 70, che era fuori i compagni dalle galere, e la scritta, appunto scritta in maniera contemporanea, era fuori compagni barra te dalle galere. Non si può vedere una cosa del genere, cioè qual è il senso della frase? Cioè è rispettare il genere maschile e femminile, oppure dire che i compagni devono stare fuori dalle galere? Questa paura delle parole a me fa molta pressione, insomma. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma per il Roma Europa dal 5 al 17 novembre 2019 al Teatro Vittoria con Barzellette, con Ascanio Celestini. Ascanio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. A teatro, ciao, grazie a tutti. E siamo alla settimana teatrale romana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Dove ti posso portare? Vi posso portare? Allora, intanto, prima di tutto, andrei a teatro, Biblioteca Guarnicciolo, perché questa settimana c'è un triplice appuntamento, perché per prima cosa alle ore 21 del 13 e stiamo parlando appunto di domani mercoledì, nella rassegna Contemporaneamente Roma 2019, ecco qua che torna Acqua di Colonia e Frosini Timpano, freschi vincitori di una targa al premio Riccioli con un altro testo, e questo è invece uno spettacolo che si occupa del tema del colonialismo italiano in Africa e in qualche modo va ad affrontare la radice del tessuto storico della società italiana di oggi. Quindi 13 domani al Teatro Biblioteca Guarnicciolo alle ore 21 per Acqua di Colonia. Seguirà il 15 di novembre Barretti Vas, Tristezza e Malinconia, o più solo Solissimo Giorgio di tutti i tempi, di Bon Park. Lea Barletti, Werner Vas, insieme a Simona Senz'Acqua, portano questo testo che insomma racconta di Giorgio che vorrebbe tanto morire ma non è possibile. Un ritratto di questa nostra apatia contemporanea, del disincanto degli umani nei confronti della vita attuale. Quindi il 15 novembre per andare a vedere Barletti Vas della Biblioteca Guarnicciolo, ma se avete la curiosità di tornarci di nuovo, il giorno successivo il ringhio della Via Lattea, sempre Barletti Vas, sempre da Bon Park, quindi un dittico, un lavoro che va a identificare una domanda: è ancora possibile salvare il mondo? Il piccolo alieno non lo sa. Kim Jong-un intraprende finalmente un tentativo, vorrebbe riunificare le due Coree con una bomba atomica. Questo c'è alla base del lavoro un po' fantasticheggiante di Bon Park, ma neanche poi troppo. 16 novembre ore 21 per Barletti Vas al Teatro Guarnicciolo. Al Teatro Liseo continuiamo ad andare a vedere Scena da un matrimonio al Teatro Liseo Sala Grande, mentre invece al piccolo Eliseo è l'occasione invece per andarci a trovare di nuovo da Romano Michela Forgia con Anna Della Rosa a Cappadora dal 14 novembre, sarà scena fino al 24, questo lavoro che racconta la storia tra una figlia e una madre, in questo caso però non la madre naturale ma l'altra madre, quella insomma che un po' l'ha cresciuta. È una storia della tradizione sarda, quella di un paesino immaginario della Sardegna, appunto, dove Maria viene data a Bonaria Urrai, una santa che fa l'accappadora. Questo è l'accudimento di questa bambina, di questa figlia, e tutto ciò che consegue è alla base dello spettacolo diretto da Veronica Cruciani. Poi ancora 14, 15, 16, 17 novembre Radio Ghetto, Voci Libere, Collettivo Radio Ghetto, se ne andrà alle carrozzerie nostre, capitalismo, migrazioni, sfruttamento. Cos'è in fondo un ghetto? Esiste davvero? Chi ci vive? Cosa sognano i suoi abitanti? Cosa vedono? Cosa mangiano? Cosa fanno in una baracca e un ghetto nell'Italia del 2019? E questa è la riflessione attorno al ghetto che dal collettivo Radio Ghetto con scena Francesca Falcomeni se ne andrà in scena alle carrozzerie Nord dal 14 al 17 novembre di questa appunto settimana. Contestualmente continua al Teatro Argentina, Se questo è un uomo, fino al 17 novembre con la regia di Walter Malosti, e quindi settimana dedicata ancora a Primo Levi, il suo capolavoro. Ma c'è da ricordare anche che appena ieri sera un grande Luigi Locascio ha portato il sistema periodico, un lavoro sempre curato da Walter Malosti, e per un'opera di Primo Levi dedicata alla chimica, sono dei racconti meravigliosi, un chimico che ha mescolato, cioè, un vivere umano, le caratteristiche degli uomini al sistema periodico appunto che governa la chimica. Poi, allora, 14-17 novembre invece, Teatro India, per andare a vedere una pagina dal romanzo di Chiara Ingravo, è Isola Teatro, nostra vecchia conoscenza, la regia di Marta Gilmour, che va ad adattare appunto questa storia di una bambina afro-italiana che vive nel quartiere romano di Tor Vignattara. Quindi attenzione, tre performance in scena, forse vedremo, è qualcosa che potrebbe interessare. Le arrivate in Italia dalla pancia della mamma, ma durante la traversata ha perso il papà. Quindi che come è considerata bimba dallo Stato italiano, come è considerata bimba dal mondo in cui vive? Quindi per una relazione interculturale con l'umanità a sé attorno, a Viva la Magica al Teatro India di Roma. Forse vediamo, ci manca soltanto di dire che ci sarà la rassegna battiti da questa settimana al Teatro Pulio Camillo, la rassegna dedicata al circo contemporaneo. Andiamo a vedere anche cosa propone la settimana di Roma Europa Festival, che sicuramente continua anche appunto in questa settimana con le barzellette di Ascanio Celestini al Teatro Vittoria. Ti vado però a segnalare anche che arriva, torna a Roma Corrado Mori con il suo Ash, la pièce pour Chantal Chivalry Kappa, 13-15 novembre all'Auditorium Parco della Musica. Questa trilogia di Corrado Mori chiude, dedicata appunto alle donne, danzatrici e coreografi, con questo lavoro dedicato a questa danzatrice su cui si concentra appunto la sua visione. Chantal Chivalry Kappa va a sovrapporsi alla figura maestosa di Shiva, che è la dea creatrice e distruttrice. Questo per quanto riguarda Roma Europa Festival all'Auditorium Parco della Musica. Ricordo anche che Kids sta andando avanti alla Pelanda con un bel po' di appuntamenti. Invito ad andare appunto sul sito di Roma Europa per appunto capire un po' questo fine settimana cosa ci propone Red Kids. Io soltanto ne ricordo uno di lavori, ed è il lavoro dedicato ai bambini da Fanny e Alexander, la compagnia storica Fanny Alexander, che presenta questo viaggio all'interno del Mago di Oz dal 15 al 17 novembre appunto al Mattatoio della Pelanda, le storie di Dorothy e i nuovi simpatici protagonisti, però insomma da una compagnia che è fondamentalmente una delle più importanti della panorama nazionale. E questo, Federico, è assai, direi, per questa settimana, e qui andremo senza ombra di dubbio. Ricordo anche che continua Trend, un'altra cosa importante, continua Trend al Teatro Belli, e questa settimana appunto avremo uno spettacolo diretto da Fabrizio Arcuri, 11, 12 e 13 novembre. È un lavoro che appunto sempre è dedicato alla drammaturgia anglofona. Si tratta di un intervento di Mike Bartlett con in scena Gabriele Benedetti e Rita Maffei. Questo per Trend al Teatro Belli. Ulteriore notizia ci arriva dal Teatro Pascelli, dove andremo a vedere dal 13 al 15 novembre da Danza al Matadema lo spettacolo curato, la regia di Ricky Buonavita, e quindi insomma danza che abbiamo già segnalato varie volte, mentre invece a Teatro India chiudiamo con il capolavoro di Robert Walzer con la regia di Fabio Condemi, il giovane regista Fabio Condemi, dal 14 al 17 novembre, Jacob von Gunten, la storia di un personaggio dalla vita tempestosa, Dio, insomma, Giacomo è protagonista, la sua educazione sentimentale e non solo, all'interno dell'istituto Benjamente, cui si impara a diventare dei magnifici zero. Questo è quello che andiamo a vedere in questa settimana ed è veramente tutto, Federico. Ciao Simone! Ciao! Tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, spazio settimanale dedicato al teatro, spettacoli e mostre. Il martedì alle ore 14. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.